vita ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Sono andato in Palestina e la chiamavano Israele. Ho visto bombardare gente per il loro bene. Ho visto il caramba di Genova con i bambini afghani che gli davano i regali e gli ammazzavano i papà. Ho visto sopra un muro fascismo e libertà. Amor che sustena, certezza della pena. Così manda la Lega per vintanni a governare. Nel mondo c'è confusione totale, nella ricerca del confine tra bene e male. Basta accendere il cervello, incominciare a pensare, studiare un po' contro la confusione totale. Fusione totale, confusione totale, fusione totale. Vita ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Magistrati comunisti, il fascismo di sinistra, il legittimo intrallazia, corruzione casuale. Ho visto il ministro fascista condannare la violenza mentre batte giornalista. Non ho visto mai la verità venire a galla qua nel paese che premia soltanto la stupidità. Oh, non mi era vista la marcia su Roma, e a noi invece già tocca marci in televisione. Nel mondo c'è confusione totale, nella ricerca del confine tra bene e male. Ci sta chi nella confusione cerca solo l'occasione buona per prosperare. Perché sta mischia e carte volta pure a scassare. Un bel da fare, ma si può fermare, o sai. Basta accendere il cervello e cominciare a pensare, studiare un po' contro la confusione totale. Conosciuta da sgamam per rifless, non ci ha mai pigliata e mo non è diverso. Tu dici che sei stata però resta sempre stessa. Me ne sei spissa, me ne so chiuda, ma sono sempre tornata, ne è capitata la gesciglia. A me non mi sono mai piaciuta, certo forzata stata, camorra, camorra stata.